3, 2, 1, vai! Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, stasera qui con noi alla Galleria San Lorenzo, in via dei Musei a Montevarchi. Anzi, ringraziamo Stefano Neri per la concessione di questo spazio ancora una volta. Abbiamo un ospite particolare, anzi una ospite, perché contrariamente al fatto per cui le donne solitamente non si interesserebbero di calcio, secondo un luogo comune che in realtà non è così rispettato, l'ospite di oggi è una donna, appunto. Ce lo presenta il mio collega Fumino, in regia con noi Luciano Salce, tra l'altro. Buonasera a tutti, nuova puntata del Volo dell'Aquila, e come diceva Julian, stasera l'ospite è un ospite dal mio punto di vista di eccezione, è una carissima amica, non è solo una montevarchina doc, non è solo una persona che per tantissimi anni della sua vita e ancora oggi frequenta lo stadio e nella maniera più precisa la curva sud. È con noi Roberta Bonaccini. Io vi saluto tutti e vi ringrazio. Buonasera Roberta, bene, allora buonasera a voi ragazzi. Partiamo subito schioppettando con andare a ripescare nella memoria cose accadute moltissimi anni fa, cose che nemmeno io probabilmente ho visto perché sono successe prima della mia nascita. Bene Roberta, c'hai una storia particolare? Sì, una storia particolare, perché io metto in visione anche i farolfi, perché io sono stata un'operaia di farolfi. E in quegli anni lì lui ci faceva sentire la radio mentre si lavorava. E c'era una trasmissione che le persone della mia età anche, che si chiamava Chiamate Roma 3131, e era condotta da Boncompagni e da Arbore. Tutti i giorni c'era un argomento diverso. Questa mattina toccò all'arbitri, sicché io, essendo una di calcio, avevo due orecchi, sembrava un... Allora parlò il primo arbitro e disse: io sono stata ad arbitrare sotto Napoli, non so dove era stato, ma non ci interessava. Dopo tre giorni mi hanno rimandato i vestiti. Ah, allora tu l'hai avuto, insomma, stesso tragitto. Parlò il secondo arbitro e questo secondo arbitro disse: io sono stata ad arbitrare in un paesino che si chiamava Montevarchi. Allora l'orecchi, però lui fu molto, dice, se no se mi riconoscano chi sente la trasmissione, non disse che squadra aveva arbitrato e niente. Però lui ha detto, dall'inizio della partita mi dicevano: arbitro, c'è il Berignolo, arbitro, c'è il Berignolo. Io so, poteva essere anche un detto di questo paese. 90 minuti, arbitro c'è il Berignolo, arbitro. E io dicevi: che sarà, che sarà. Ma quando mi ci buttarono e seppi che era il Berignolo. Facciamo una piccola puntualizzazione intanto per quelli che ci ascoltano e non sono di Montevarchi. Anzitutto, Vasco Farolfi è stato presidente storico a più riprese dell'Aquila Montevarchi 1902, era titolare di una pellicceria piuttosto conosciuta e piuttosto importante anche in ambito nazionale. Il Berignolo invece è un piccolo canale di scolo dell'acqua di alcune parti di Montevarchi. Ma acque bianche o acque nere? Bianche. Bianche. C'era scelta anguille così quando lo chiedevo. Acque bianche con l'anguille. Il Berignolo era ed è attualmente un piccolo canale di acque evidentemente bianche dove finisce gli scoli delle case montevarchine, non certo il luogo migliore dove trovarsi immersi dentro. Com'è che quest'arbitro però finì nel Berignolo? Si vede che quest'arbitro a Montevarchini non aveva accontentato. Insomma, Fumino, come si dice a Montevarchi, quest'arbitro fece una finuccia, diciamo. Andò nel Berignolo. Esatto. Quest'arbitro andò nel Berignolo. E seppe cos'era il Berignolo. E così poté scoprire cosa era il benignolo, perché c'era infilato con tutte le scarpe. Ma tutto vestito. Te, Roberta, questo episodio te lo ricordi personalmente perché l'hai visto oppure l'hai solo sentito raccontare? Io l'ho sentito raccontare alla radio, perché io so che partita lui aveva arbitrato, e quando l'aveva arbitrato il mio pensiero fu che lui non l'ha detto, perché avrà detto: se mi sente qualcheduno e viene a cercare. E non disse nemmeno di dov'era. Lui disse soltanto: m'hanno mandato a arbitrare in un paesino. Sicché se lo sentino, ora quest'ora forse non esisterà nemmeno più, non so. Auguriamoci sia ancora vivo. Ma certo, la morte nemmeno è peggiore mio, anche se l'arbitri... Insomma, così non più di qualche d'un altro si meritano. Io la storia, era meglio se non avevo raccontata alle due strade, è come venuta fuori la storia di Berignolo. Perché questo riferimento alle due strade, che è un campo in... No, perché disse Simone, te per tenere la gente lì, ferma, calma, disse, ora ve la racconto io. Simone dice, te per tenere la gente a posto, tu sei lasso. Chiariamo che Simone è un conosciutissimo ultras della curva sud di Montevarchi. E Bisboccia. Esatto, detto Bisboccia, e abbiamo qui con noi la madre di Bisboccia, perché comunque a Montevarchi la signora è conosciuta anche in questo modo. Dico bene? Beh, diamo a Cesare quel che è di Cesare, quindi qui è qui. Ma io so fiera. Beh, vorrei vedere, chiaro. Oh, bene Roberta, dunque, ci hai raccontato questo simpatico siparietto occorso ad un arbitro sconosciuto in una partita sconosciuta, però il Berignolo l'ha ben conosciuto. Dici ora, Roberta, te che non sei originario di Montevarchi, perché sei di un paesetto là vicino a Montevarchi, vale a dire di Terranuova Bracciolini, come è successo in primo luogo che ti sei trasferita a Montevarchi? E poi come è che è cominciata la tua passione verso i colori rosso-blu a seguire la squadra del Montevarchi, visto che ci dicevi in fase di preregistrazione che quando a Montevarchi si giocava nei campi di calcio, negli altri paesi del Valdarno giocavano nei campi di rapi, perché il calcio non c'era. A Terranuova non c'era. Io ho cominciato a frequentare lo stadio quando il mio Roberto, insomma il primo, aveva un anno, perché io no, a Terranuova non c'era. La nostra passione era di andare in bicicletta e basta. Chi l'aveva? E il calcio non c'era. Difatti il calcio l'ha creato un cugino mio a Terranuova. Poi è venuto i balleri, è venuto a stare a casa nostra. Insomma, poi ragazzi sono cresciuti. E poi peggio pigliai i vizi, come quelli fumino. La domenica io basta vedere le luci accese, bisognava da vedere che c'è. E poi tu pigli passione, e poi c'è i ragazzi, insomma, che ti trascinano. No, no, loro vanno in curva e io tante volte sono in tribuna. Se no, tante volte non ci si conosce nemmeno, perché io non posso vedere il rito. In balaustra? È sempre lì, e se c'è da entrare in campo, il primo che entra, Simone. A prendere le magline? Tutte, stanno tutte. Ci manca la maglia nera. Cioè entra in campo, specifichiamo, a partita finita per prendere le magliene, non è che entra in campo a fare dei casini. No, questo no. Quindi Roberta, la prima volta allo stadio Brillipera a vedere il Montevarchi, più o meno ti ricordi quando è stata? Ascolta, il mio Roberto è di 64, sono andata al campionato, all'inizio del campionato. E comunque dal 64 ad oggi la tua è una frequentazione continua a Montevarchi. Tante volte mi portino in trasferta. Quando c'era il pullman ci andavo da... Non mi portino perché cominciano a dire, ma visto in macchina ci sta meglio un giovane, te che può venire. È una questione di comodità alla fine, no? No, ma va bene, tante volte mi portino, tante volte mi tocca sentirla alla radio. Alla radio, se dice male, la spengo, se dice bene, la tengo accesa. E qual è stata alla radio la partita che hai ascoltato, che più ti ha emozionato, che più ti ricordi? Nonostante quanti anni e quante partite, ora tu mi metti un po' in difficoltà. Beh, la prima ti viene in mente. La prima che ti viene in mente. Anche... Ascoltata alla radio, non vista di persona, ma ascoltata alla radio. Ascoltata alla radio con la rabbia quando si faceva i derby. Derby contro chi? Contro Tucini. quel paesino, quel di là paesetto, dalla Gruccia, diciamo. Quello di là dalla Gruccia, quello è stato sempre... Io glielo dissi, San Giovannese, preparati perché anche stavolta tu torna a casa a piedi. Ma quando glielo dicesti? Ora di recente, diceva. Ah, ok. No, gliel'ho sempre detto, perché io c'ho un genero San Giovannese, meno male non è tifoso. Ma perché, scusami una cosa, ci sono stati dei San Giovannesi che sono tornati a casa a piedi? L'ultimo a partita. Ce la racconti, per favore, se no, la sai. Io so che tornarono... Sì, si era schedati con tutta polizia, carabinieri, ci chiusero dentro, non ci volevano far scappare, e c'era da andare anche a vederli, ma che sei matto. Sì, però, nel senso, la storia, cosa è accaduto, più o meno, più o meno. E che le è accaduto, Claudio? Tu c'era anche te? No. E che è accaduto? Tu lo sai anche te che è accaduto? Per lì, non c'ero in realtà per il lavoro. No? E ci sera, loro erano di sotto e non c'era di sopra. Non ci chiusero dentro, loro li fecero però c'era anche che li era in bella andare e via. Le macchine non gliele fecero qui, alla stazione non li fecero andare, si incamminarono coda a coda. Quando si andò a San Giovanni, se ben tu ricordi, non ci volevano far montagne, ci volevano andare a piedi anche noi, ma non si venne a piedi, vai. Esatto, ora proviamo a riassumere la cronaca storica di questa faccenda. È vero, Claudio? Era il 2001, il derby Montevarchi-San Giovanni tornava dopo molti anni al Brilliperi a Montevarchi. A fine partita ci fu una situazione per cui gli ultras san giovannesi non riuscirono a tornare alla stazione a prendere il treno e dovettero farsi un tot di chilometri, che esattamente ora non so quantificare, però non tantissimi in verità, a piedi per tornare nelle loro case. Cosa che era avvenuta in maniera analoga qualche mese prima, se non erro era il derby di Coppa Italia di quella stagione. Non siamo mai tornati a piedi, Rio. Esatto, in cui Montevarchi era a San Giovanni, sconfitto tra l'altro in Coppa Italia, se non erro 1-0. La polizia cercò di far tornare la tifoseria montevarchina a piedi, o comunque di non fargli raggiungere il treno, cosa che non successe per opposizione non solo dei tifosi, ma anche di signore come lei, Roberta, perché se io ricordo bene, ai tempi c'erano molte signore a gridare davanti alla polizia, noi si va a Guarda, prendere il treno. Quando si andava in trasferta e si andava in treno oppure con pullman, ne si diceva, ragazzi, state dietro, in prima fila si va noi. Si andava le donne, perché se si provino a dirci qualcosa, si sistema in noi. Prima di tutto mi si tira due ceffoni, se ci chiedono il perché, ora io non posso dire. E allora mi si diceva, ragazzi, indietro voi, avanti, si andava tutte le donne, tutto per benino, lo striscione, tutto. E dietro, ragazzi. Perché se ci dico qualcosa, se sistemi noi. Bene, abbiamo imparato che a prescindere dal fatto che esistono las madres de Plaza de Mayo, esistono anche le madri di Piazza Varchi, evidentemente. E adesso raccontaci un po', secondo te, qual è stato il calciatore più bravo, più rappresentativo, quello che a te ti ha più colpito, che era in forza al Montevarchi negli anni, nella storia, perché ormai... Tu che è dal 64 che vai a vedere la partita, si parla di oltre 50 anni. Ce ne state tanti dei giocatori che quando in Balleri lo portava allo stadio e li faceva tirare di notte, allora non era illuminato lo stadio. Diceva domani tu la devi centrare la porta. Ce ne state tanti, dai. Via, un diciamo che a Montevarchi non ci sono stati, un ti voglio dire un idolo come può essere nella Fiorentina, però a Montevarchi i giocatori ci sono stati e ci hanno fatto sempre divertire. C'è stato l'alto e c'è stato il basso, però. E se qualcuno non è contento, va e se lo compra un giocatore e se lo porta. Precedentemente avevi fatto riferimento a Lupo Balleri come un frequentatore di casa tua. Com'è andata questa cosa? Perché lui era molto amico di mio marito, capito? C'era il mio marito, c'era Marcello Di Sanino, insomma, e veniva a trovare la mia suocera e la mia suocera via rimane un giorno a mangiare. Lui veniva. Quindi quando Balleri era sia giocatore che allenatore era un frequentatore di casa vostra? Simone ve lo racconta più che... No, Simone mi dice il babbo, quando chiama Livorno. Dice, Fiorella, dov'è il babbo? Spieghiamo per gli ascoltatori che non sono di Montevarchi e che magari non conoscono Lupo Balleri, che in realtà a Montevarchi è una delle figure legate alla squadra di calcio più famose e più conosciute da tutta la cittadinanza, che appunto Lupo Balleri è stato un allenatore del Montevarchi Calcio molto osannato e perché molto vincente. Quindi Roberta, raccontaci qualche aneddoto riferito a Lupo Balleri. E che ti devo dire, in casa mia c'è sempre stato. C'è stato con gioia e c'è stato con dolore. Lui parlava molto con la mia suocera. E ancor prima che fosse allenatore del Montevarchi, Lupo Balleri ne era stato anche calciatore. E proprio negli anni in cui era calciatore per il Montevarchi, Lupo Balleri ha stretto una forte legame di amicizia con la vostra famiglia. Sì. Ci racconti un po' come è cominciato questo legame di amicizia? È cominciato così, che lui e Marcello, insomma mio marito, lo invitava, viene. E lui mi piaceva il mangiare che faceva la mia suocera. E la mia suocera ne diceva, qua devo venire, vieni. È stato una volta, è stato due volte. Poi ha fatto parte della famiglia, capito lui? Si portava Simone, era piccolo, se lo portava dietro alle trasferte. E qual era il piatto preferito di Lupo Balleri che cucinava tua suocera? Lui il lunedì, ti posso di questo, portava il pesce. No, il martedì mattina portava il pesce e lo cucinava lui. Capito? La mia suocera faceva il coniglio, faceva... Vabbè, quindi il coniglio, diciamo, che era il piatto preferito di Lupo Balleri. Sì, sì, ma i Balleri era una buona forchetta. Era proprio una buona forchetta. E quando Balleri era al vostro convivio, al vostro tavolo, sì, a pranzo, sì, da sì, voi, sì, parlava del Montevarchi, del calcio, dei giocatori oppure no? Era tabù? È sempre stato segreto. È sempre stato segreto? E la mia suocera ne diceva, Costanzo, se tu vedi, la mia suocera è il calcio, figuriamoci, non lo seguiva, perché guardava, ascoltava i risultati per poi raccontarli della serie a ragazzi. E gli diceva, Costanzo, ricordati, se tu vedi qualcosa che non va, prima che ti mandano via, glielo diceva la mia suocera, va via da te. E quindi, visto che ancora mantieni i contatti con Lupo Balleri, come sta? Cioè, bene, ha detto la Fiorella, sta bene. La Fiorella è? La sua moglie. La sua moglie, perfetto. E qui non tutti gli ascoltatori sì, sono a conoscenza. Ma se ne ricordano di Montevarchi. Bene, andiamo un attimino più vicino ai giorni nostri, magari. Visto anche gli ultimi periodi, i successi del Montevarchi degli ultimi anni, ti ricordi una partita più bella tra tutte quelle che hai visto, magari anche recenti, oppure anche indietro nel tempo? Ascolta, io ti dico una cosa, quando si vince sono tutte delle belle partite. Non c'è da darci... Quindi gli ultimi periodi sono stati positivi, diciamo, gli ultimi 4 anni. Ma io glielo dissi, sa, San Giovannesi. Gli dissi, quando voi l'avete avuto i 2000 spettatori? Dice, ora? Ma che ora? Se voi sei venuto a vedere... Lo so perché c'era in San Giovanni. Se voi sei venuto a vedere come si fa, com'era la curva. Dice, ma noi, ha visto, si è fatto le bandierine o per copiare da noi. Feci le bandierine. E nei 53 anni di tua presenza ininterrotta allo stadio Brilliperi a seguire le sorti della squadra cittadina, chiaramente hai visto dei momenti belli ma anche dei momenti brutti, tristi e non poco, i moltissimi anni appunto in cui le partite erano brutte, dei pareggi insulsi e poi le retrocessioni fino al... E tutte quelle ci hanno rubato. Anche quelle, però fino al picco più basso, vale a dire il fallimento. Bene Roberta, come ti sei sentita nel momento in cui hai scoperto che il Montevarchi era fallito? Io ti dico la verità, mi sono sentita male. Però io dicevo sempre, si deve risorgere. si deve risorgere, non si deve abbandonare. Perché se uno ha fede e ci crede nelle cose, se non è prima e dopo, però tu risali. Allora, secondo una delle ultime interviste a Vittorio Firli, il Montevarchi era fallito in conseguenza al fatto che probabilmente l'entusiasmo nella cittadinanza era andato cadendo, diminuendo. Te che ne pensi rispetto a questa cosa? Io non penso come la poteva pensare, però quando le cose vanno male, ha visto, tutti tirino indietro. Quando vanno bene, tutti in prima fila per farsi vedere. Quando le cose vanno male, fanno il gambero. Però io non ci ho mai creduto che sia mancato l'entusiasmo. Forse più le persone anziane hanno tirato indietro dei giovani, perché dice sì, va a pagare poi tanto, ma i giovani ci hanno sempre un po' più creduto. E questo in effetti combacia con quello che appunto diceva Vittorio Firli, alla fine la mancanza di entusiasmo può essere anche riconducibile, sì, ad una mancanza di fede, e anche quello che, per chi l'ha ascoltato nella puntata precedente, ci ha detto Giorgio Garozzo, vale a dire che in qualsiasi categoria, in qualsiasi momento, comunque le cose si fanno sempre dando il meglio, sempre dando il massimo, al massimo appunto delle proprie possibilità, altrimenti non viene niente. E questo che tu ci dici oggi in parte ce lo conferma. Di conseguenza, Roberta, secondo te i Montevarchini e quindi la Montevarchinità, perché non ce lo dimentichiamo, il Volo dell'Aquila nasce alla ricerca della Montevarchinità, alla ricerca della nostra identità, che poi magari è riconducibile anche all'identità di tanti altri posti, di tante altre persone. Quindi, Roberta, Montevarchi, i Montevarchini viaggiano a braccetto con la fede, con il crederci nelle cose, oppure no? Se le cose vanno bene, viaggiano a braccetto e ne parlano. Quando le cose vanno, si comincia a criticare. C'è un po' di fuggi. Sì, eppure ce ne siamo accorti allo stadio. Quando va bene, la domenica ci siamo. Se no, tante volte non c'è nemmeno l'abbonato. Quindi nella nostra ricerca della Montevarchinità c'è questo nuovo particolare che si somma. Quando le cose vanno bene, il Montevarchino esulta e si mette in prima fila. Quando le cose vanno male, il Montevarchino fa il gambero, esattamente. Un atteggiamento analogo rispetto a quello che succede evidentemente a Firenze, a non troppi chilometri di distanza da qui, laddove la Fiorentina, quando va bene, crea idoli che diventano immortali, e quando va male, invece, gli stessi personaggi che precedentemente erano idoli vengono mandati via, come si suol dire, a calci nel culo. Se mi permetti, Julian, questo succede anche nella colonia di Firenze, che è quel paesetto di là che dicevamo prima, che dicevamo un po' anche, perché anche lì quando le cose vanno sembrano tutti leoni, e quando poi le cose non vanno, anche lì tutti coglioni. Diciamo quindi che è un atteggiamento dell'essere umano che è riconducibile un po' a tutti, ora senza, a parte le battute, insomma. Sì, sì. Diciamo una situazione analoga effettivamente a quello che succede nella colonia qua vicino, laddove, visto che stiamo registrando e sono i primi di agosto, qualche settimana fa c'era molta tristezza, da 24 ore c'è molta gioia, quasi avessero avuto una pesca molto positiva nell'Arno, tanti pesci, quasi a dire tanti pesci pescati, ributtati e ripescati. Dico bene, Fumino? Sì, sembra proprio così. In realtà la verità è che per la stagione calcistica prossima il Montevarchi Aquila Calcio 1902 è notizia di poche ore fa, per la verità, però premettiamo e ridiciamo, stiamo registrando e sono i primi di agosto, voi ascolterete questa puntata che già la stagione è iniziata, se non erro comunque sta per iniziare. Il Montevarchi Aquila Calcio si troverà il prossimo anno in Serie D nello stesso girone con quel paesino qua vicino, là dalla Gruccia. Esatto, il paesino di là dalla Gruccia, che è stato ripescato dopo una recente retrocessione. Roberta, raccontaci allora, visto che si ripropone quest'anno dopo 11 anni quello che viene chiamato il derby del Valdarno, qual è stato per te il derby contro il San Giovanni più bello, quello che più ti ricordi, quello che ti ha lasciato qualcosa dentro? Quando si sono rimandati a casa a piedi, bellini tutti in colonna, in fila indiana, facendo carovana. a prescindere da quello che succede fuori allo stadio, calcisticamente ti ricordi un derby? Perché recentemente non sono stati così tanti derby con un risultato positivo per noi montevarchini, quindi ti ricordi un derby che calcisticamente merita di essere ricordato, appunto? Ma dimmene uno, poi io ci... se ne vede tanti, dai, è una cosa... Tu mi fai una domanda e ci potevo studiare. Se credo tu mi lo segnavo in un quaderno quando tu mi chiamavi. Hai ragione, però io purtroppo se vengo da un'epoca e ho visto tutti i derby e di tutti i derby ho visto se ne è 21 probabilmente, quindi io ti posso raccontare una vittoria, io quelle molto antecedenti non me le ricordo, anzi molto precedenti non me le ricordo. Benissimo, siamo giunti alla fine di questa puntata. Ringraziamo Roberta per i suoi ricordi, i suoi aneddoti e la sua montevarchinità. Ringrazio il nostro regista Luciano Salce. Ringrazio il mio collega Fumino. Bene, Giulia, io ringrazio te e stasera, incredibilmente, ringraziamo anche i numerosi ospiti che hanno seguito la registrazione della puntata qua direttamente dalla sala della Galleria San Lorenzo. Bene, grazie a voi. Cercherò persone che sanno qualcosa se ci vogliono venire. Bene, grazie anche da parte mia. Buona serata, buonanotte e alla prossima puntata. Certo. Per forza. Ascolta. No, bisogna che fare il microfono per forza, Roberto. Anche questa. Sta a sedere, sta a sedere. Fare le fotografie perché ci vengo male. Oh, per farmi la carta d'identità me l'hanno fatto 5 volte. No, preferisci... Perché io mi sono bene messa a sedere. A me mettimi il nome che tu vuoi. Se tu dici Basagni sono tutti ferranovesi. A Terranova siamo tutti Basagni. Il Berignolo è un... Ancora? Esatto, io ci sto di asa accanto tra l'altro, dico, c'è anche topi in Il Berignolo, ora capito non ci sono più, ma c'è certi sarchiapone a questa maniera. Allora lo dico, no, me lo dico, perché poi dice, senti, questo mi parla male, se poi lo senti in micito dice, ma che vai a raccontare? Io per ciao. Perché non mi ci portino tante volte scritti? No, per sapere di parlare bisogna un attimo, chiami Simone. La mia suocera la chiamava mamma. L'Anita si chiamava Anita, la mia suocera. Perché lei lo considerava come un figliolo. E in un modo o nell'altro siamo risorti, evidentemente, sì, visti dalla successi cenere, recenti. Dalla cenere siamo risorti. Come la Fenice. Se tu credi in una cosa, è inutile fare castelli che poi te non tu credi. No, visto che stiamo registrando... Non ne mette tutto e lo dico. No, ma sì, è per fare si taglia.